alle 10 c'è qualcuno? Ah, ciao tu, con me. Cosa sta? Ah, quando sente che dobbiamo parlare due cose. Ma fino ora fa forte, sta buono. Stava piangendo. Quando sento le nostre chiacchiere due cose. Ciao Gabriele, ciao! Ciao piccolino! Guarda, attenzione! C'è Cavazzappi che vuole entrare, avanti Cavazzappi. Ciao Antonio e ciao Gianni. Ciao Checco. E me, come va? Tutto bene? Bene, bene. Papi, io la poltrona. Gianni. Ernia. Come va, Proto? Proto. E chi è Proto? Chi è? Brutus, Lillus. Proto, Zuniari e Gabino, e vai. Non fare finto, tutto. Come va già? Tutto buono? Buono, adesso devo farmi l'insulina un po' qua. Oh, non mi dire mangiare di tutti. No, oh, no. Guardate, mio nipote e mio figlio. Una e una. Erano le tre e una te. No, no, io non ne ho mangiato. Ora ce ne ho mangiato due, uno e uno l'altro. E tu te metto 4. Gaba gaba, va bene, va. Cazzo, sempre sputare. Non lo dico io, lo voglio dire, ne dico nulla. E devi pregare che domani lui dimmi. Oh, signori miei, adesso mi tocca fare salti mortali per recuperare la glicemia giusta. Dai, ma te dite che è aperta la farmacia, te ne ho comprato 10. Oia, mi ha fatto piacere, ma cazzo proprio unico mi vieni a portarmi queste cose che devo farmi le analisi domani. L'improvviso adesso, cose più belle. Avanti a tu. Oia. No, la cosa che gli piace a Gianni. Ah, stai con la crema, tu. La proto pipì, la protollella. Ah, sì. Già, te li ho mangiate con le fate. Perché un po' di andavo al bar di via Rosello, andavo. Poi mi ero con il cazzo, ci sono più andato. Ma chi è sempre il diritto questo? No, nel fatto di sempre il diritto questo. E le mangiamo pure io con le fate. Meglio andare a comprare direttamente la pasticceria, dal pasticcere alla bocca. No, già sono buone quelle di pronto. Ehi Gianni, come ha aperto il pacco? Sono stati tantoni mio. Non è cannoncino, pare di cannone, non cannoncino. Sì, già, mi piace, vabbè, c'è la rivendita in Garpascoli. Chi se mi piace davvero? Morito. Ah, Cicomila ha fatto le frittelle. Manuè! Avanti, porcetto! Avanti, avanti, io già ti sento. Anche io, Mare di Mucu. Attenzione, Mare di Mucu. Manuè, ma è vero che hai fatto le frittelle? Manuele! Ma Tizio si è parato. Ma parato. Manuè, sei andato poi a vedere il mercatino oggi? Ma che cosa ti successo? Ho mancata la luce. E oggi c'era il mercatino a semicircolo, come dicono quelli del paese, semicircolo. Oppure ha aperto il frigorifero, Manuele. Ah, non penso a quest'ora, è presto, va. Ma com'è, non c'è Natalino? Natalino! No, stanotte ha messo più già me, già. Sì, stanotte sono dentro casa, domani mattina devo uscire, devo andare al centro di abiti. Quindi dopo che vai al centro diabetico, dopodomani di nuovo protollella. No, no, non sarà. No, no, no. Adesso che sono solo, sto riuscendo a mangiare roba che non mi fa male, c'è sempre la glicemia a posto. Quando cucina la Eda, non la baita, se mi fa di male o no, la cucina romantese, la roba è... e mi fa male, poi mi fa salire la glicemia. E tu la mangi ma te, se no che dici che mi fa male, non ne mangio. Oh. Ma se ha cucinato lui, se lo già mangio. Vabbè, dai, comunque, adesso già sono tranquillo che mi faccio quello che voglio io. Insalate, grandi, pesce, roba così. Avanti a tu. Ah, quando l'ha passata al forno che era 10 centimetri alta, cazzo. Ma bella ambrosa e bella condita, non di che si asciutta, bella condita fatta bene. E cosa vuoi, la lascio? Come la faccio io? Non mettiate che si asciutta, asciutta, fa carità. C'è gente che ci mette anche l'uovo, besciamella, sugo, sottilette, mozzarella, mamma mia quanto è buona! Prosciutto, il prosciutto mi piace a me! E anche il prosciutto ci va tutto! Troppo... no, così è troppo una bomba! Oh, la besciamella, sugo, un po' di mozzarella, un estratto e via! Oppure ci puoi mettere anche... come si chiama? Il formaggio filante! Perché se ci mette le uova e il prosciutto non va male. Ui, buona resa, veda. Le uova non ci stanno a fare niente troppo, è fuori ricetta, è fuori l'uovo. L'uovo io l'ho trovata con le uova, sode, in mezzo, fatta a pentire. Ma non mi ispira Tony, non lo so, magari è buona, però non mi ispira tanto, è troppo una bomba così, dai. Così è troppo amprosa, tu non la digerisci. Ma la pasta al forno è buonissima, se è fatta bene è buona. Una volta avevo delle fette di broccola, di quella, di quella della Corea, mi cazza. Aspettata. Ha di ubriato che l'ho fatta con quella, posso metterci la mozzarella, per come fanno voi. Ui, è uscita, ma buona, amiche, non è uscita. Ci credo, sempre formaggio è. E ci metto anche un po' di formaggio grattugiato sopra anche. E anche la mozzarella è buona. Sì, vabbè, avevo quella, vabbè, anche te ci ha formato. Sì, no, e beh, anche il formaggio grattugiato è la prima cosa che ci vuole, per me. Con quel sughetto ragù, come ti Dio comanda. Abbia chissà, ti ho detto, beh, ma c'è un bel po' di fette, due pacchi di questi fette di cose. Ha detto, mamma, ma giù chi c'ha, è troppo a me, sarà tagliata un po' e lo... Se ci sta buona, ma buona a me. Ci credo. No, io il formaggio lo metto, anche la mozzarella metto, poi il formaggio grattugiato sopra, capito? Oltre la mozzarella. E la fa un bel buona, così faccio anche le melanzane alla parmigiana. Ci metto l'uno e l'altro. Manuele, ci sei? Ho detto, andate, ci sei oggi, al mercatino che c'era lì, all'emiciclo. No, passando l'ho visto, Manuele, stavo passando in macchina e l'ho visto passando lì. E adesso c'è il primo del mese, c'è quello di Piazza d'Italia, e poi c'è l'altro. Manuele, ma le frittelle fatele, Dici che facevi le frittelle, boh. No, c'è Cacusi, tu hai fatto le frittelle, io ti ho dedicato che sei Manuele a magna. In bagno l'ha fatto. Ah, non le mangi frittelle, Manuele? Lì la Gianni se ne mangia. No, io non le mangio frittelle. Emanuele, se le vuoi mangiare buone, vanno via Cattalucchino che le fanno un bel buone. Cavolo, da Vittoria sono un bel buone. No, quelle a giro, quelle di carnevale. Ma là ne ce lo mettono già? Tutto mettono, e buone sono, morbide tu. Non so se io sono fatte buone io qua, non so dove c'è, me le ha prese via accogliato l'altro giorno. Come erano un bel buone, allora? Ma dove c'è la pasticceria qua giù? E quale pasticceria? Che pasticceria è? Masia. No, dolce di vista, dove abita Luca, prima, c'è il bar. C'è il bar. Domenico, appena più giù, c'è quello dove fare i capelli e là c'è la pasticceria. C'è anche Cesarà, c'è il panificio anche più giù, e lì trovi anche le frittelle, le paste. No, c'è anche la pasticceria, è vicino dove fa il parrucchiere, dove c'è il fondo del parrucchiere, proprio attaccato. C'è appena è la pasticceria, dolce e delizia si chiama. Sì, lo so. C'è anche il bar vicino io, lo so, però sto dicendo anche da Cesare c'ho quello che vende il pane, porta anche le paste, anche le frittelle. Sì, l'ho detto, sono buone anche lì. E Cesare ce le fa buone le paste, anche i dolcini fa, se vuoi apprendere da c'ha un assortimento allucinante. Sì, lo so, mamma mia, sarebbe mangiare se ti fa vedere. Poi tra Guido si trova ragione, dice sto ingrassando solo ad ascoltare a voi. Caffa, comunque, ma il capo, vi ha comprate Emily, mi ha coniata l'altro giorno, capo, un po' una reddito. con i dolci, anzu. Poi con il dolce, e poi sono arricchiato, le hanno arricchiato e hai fiato. Sono buone appena fatte. Ehi, hai dato una per il sapore dell'amici, a me mi piace di così. Importante. Non va lì, da... fatto via da te. Sono sceso all'aerospinta, sono andate. Sono trovato indietro, mi sono fatto dare i quinti mortali da quella grande. In caccia non mi sono riviti. Mi hai dato retta là. Cappa troppo buona, mamma, che brutto fumo, che poi calda calda, le baguette, ui. L'ha posteggiato stesso, me lo mangiate mia. Ma dove? Prima di pagare? No, quel mago fa in disì. Le ho pagate, sono andato a posteggio che c'era fuori, mi sono seduto in macchina, me l'ho aperto e me lo mangiate. Io lo facevo così, c'avevo il coltello sempre appresso. Anch'io c'ho il coltellino piccolino. E vabbè, c'ho anche il coltello grosso, però non me ne frega niente, il piccolino ho preso. Prendi la baghetta, a chi lo mano me ne faccia tutta. Troppo buono, qua. E il burro, c'ho, no, c'ho neanche fame, ho preso un pollo per le caruzze, buh. E oggi ho visto che ho nulla. Quando sono a casa mi sono mangiato soltanto un'arancia, buh. E vabbè, la te avevo mangiato anche le paste. E vabbè, ho fatto un fioretto e mangiare poco oggi. Io ho mangiato le gnocchi alla salda. Era capitanese, poi se l'ho già visto cosa ho fatto, la rete di pollo e niente, poi la frutta. Ma lei è imbragato con un vino però? No, non vino, no. Ah! Manuele, ma a furia di ascoltare questa roba buona da mangiare ti stai saziando? O ti è venuto la fame? Chissà cosa ha dovuto mangiare oggi, ma... No, si tratta male di un signorino. Ah! Ma l'hai fatto Barbara, l'ha fatto Barbara. Sì, ma quando c'è lì tu pensi solo a mangiare, boh. Già, se mi devo muovere, c'ha le guance di buchito. E lascia le sacche, stupido, boh. Ehi, vabbè, dai, non si tratta male. Ma che poi mi tocca portarlo a Houston, nel Texas. Sono mamma, non dico che stavi soffiando. Tu, da molto senso da vedere Emanuele. No, non da tanto. Hai visto bella guanciotta che c'ha? Ma non dire che tipo la peggiore, non prendi nulla, puruetto, poverino. Cosa vuoi fare? Troppo, è un pedino un po' strano. È l'unico che è ingrasso, pure io sono ingrassato. Ma lui proprio ha detto no, la dottoressa ha detto mangiare poco, peso troppo, poi mi fa male il cuore, capito? La luce mi mette a dieta. E invece poi lo vedi su certe fotografie che mi manda, con tanto di piattone, mamma mia, di pace asciutta, tagliatelle, coi funghi porcini, di tutto. Comunque sono una credone che ti trasporta, dico, ah, io facciamo quello, una che buono, manco male che non che io sono già tranquillo che manco io bevi la ghida. E vabbè, tranquillo, da una parte e dall'altra ti dispiace di la vita. Ma sinceramente è proprio di lì, no, perché adesso la caghita me lascia. Ah, ho capito. Ma stai ancora frequentando? Cappa. Quando non c'è quella chiamo l'altra. Va bene, va bene. A turno. Ehi, a mancanza di una. Manuè, già me ne è fatta di vivo una lavura, sì sì. Manuè, niente, a lui quando gli parli certe cose si farà un fumo. Anto, Gabriele quanto c'ha adesso? 2 mesi. Dai, di piccolino ancora. È qualche settimana. Dai, Anto, quando fa 2 anni lo impara a parlare a baracchino. Ehi, già lo metto. No, ma penso che... già da un annetto penso che cominci già a parlare. Farli mettere la portata e fare pernacchiette. Un anno e mezzo. E cominciano già a dire le prime cose. E sono più emancipati, non è come una usa, no? Se arrivi a 4-5 anni non fa vita, va, appena nasce già fa vita. Prima nascevano con gli occhi chiusi, va, nasce con gli occhi chiusi. E poi col pistolino dritto. E te, non uso Edo, Emanuele. Ah, infatti quando è nato Gabriele è nato con gli occhi aperti. Sì, prima nascevano con gli occhi chiusi, adesso sono già eccitati da quando nasci. Hanno già il cellulare in mano quando nasci. Manuele, cosa sono, maschio o femmina quei figli? E il figlio chi l'ha avuto? È sposato. Vabbè, dai, si moltiplica la famiglia. Anch'io sono nonno. E tu sei nonno? Eh beh, mio figlio ha un figlio che già ha 7 anni. Ah, allora anche tu. nessuno, cioè mi fanno più vicolo, cazzo. Non lo sapevano tutti, pensavo di no. Non me l'hai mai chiesto. E poi, prima o poi anche Gianni, prima o poi, non si sa mai, si cresce sempre di più. Vabbè, quella lì è la vita, quando si cresce, poi, se Dio vuole, la famiglia va avanti, no? E poi c'è Bimbecchiuzzo. Sì, anche il Zerino, no, non le vogliamo, ma poi, alla fine arrivano. E così, cosa, eh? Quando comincia a crescere, pure la figlia lo fa. Cioè, le cose si chiedono tutti in un momento. Allora, vabbè, con la figlia si alisano, poi si fa di pesca e si fa avanti. Vabbè, naturale. È che non c'è, infatti io dicevo sempre, dicevo, cosa vuoi maschio o femmina? A me non mi interessa, è interessante che sia sano. Ah, ma cosa cosa ti dico io? E adesso mi ti fa la femminuccia anche se appunto. No, basta. Dici, mai dire mai a tu. Io prima maschio, poi femmina, due e buh. Io prima femmina e poi maschio, due e buh. Maschio mio fa 44 anni quest'anno, e 38 ne fa la femmina. Poi mi sembra molto più piccola, lo sento lì, 38 anni, sembra una ragazzina di 19 anni, 20 anni, buh. Io rido con l'età lì. Ehi, se le porta bene. Infatti, non gli darei mai gli anni che c'ha. No, infatti non gliela dà nessuno. Quindi, poi, quando dunque a Cannavara, eravamo a Roma, non mi ricordo, con lei, quando sono andato per il fatto di per il casting, e mia figlia aveva chiesto a un poliziotto, c'era la polizia, la stazione Termini, c'era un gruppo di poliziotti, le ha chiesto un favore, che il metropolitano doveva prendere, non so che cosa l'ha chiesto, e ha detto, così giovane lì già qua in giro, ha detto, guarda che lo so giovane, allora la scorsa era 37 anni, è rimasto meravigliato, gli dice, capita. A me a Genova mi hanno ascoltato, la macchina della polizia, era sopraelevata, cazzo, avevo sbagliato, dovevo andare sopra, sono andato sotto e ho fermato la patria della polizia, ho chiesto, ma tu sai se sì, e di dove sei, di Sassa, io sono di Itti, io vieni appresso a me. Vai, tu pure ascolta la mia. Dopo, li abbiamo ringraziati, era sato. Manuele, non ti addormentare, e poi cosa hai cucinato? Cosa stai cucinando, Manuel? Cosa niente, per niente? Tu non lo vuoi dire, se no sai che te me lo avvicino io, ga. Ma tu non ti te mi sono io. Ma è me a chi te mi sono citato, Manuel. Non lo vuole dire, puzzinoso, me. E tanto ci avrà porcetta, niente, ancora da stamattina. C'è la cipolla tapponella, vuol dire che si fa più se cipolle. E la cipolla la puoi mettere anche mezzo pomodoro nell'insalata. Io la metto cruda così, mi piace un bel... Lo so, ma io ogni volta che vado sul mercato come stamattina mi dimentico se vengo a prendere l'aceto di mele, porca miseria, mi dimentico sempre. Poi ho finito il formaggio stamattina, non mi sono talmente tanto negli gnocchi che sto giungendo tutti, l'ho visto in bacchi, poi l'ho messo a taglio e non ce n'è più. Ma il formaggio brutto che ho adeggiato mi manca, perché io ne compro sempre 5-6 pacchi e poi le metto anche nel freezer, e mano a mano una in frigo, quando sta per più indietro l'altra dal freezer lo metto in frigo. Anche io faccio così, ma non li metto in freezer, li metto nello scompartimento dove metto il salumi, lo metto lì, ne prendo 4-5 anche io, ma mi è sfuggito, non me ne sono accorto che ce ne danno pure. Antonio, riprendi. Perché sto facendo il libero a buco, un secondo. Ok, dalla mangiare. Ma a Natalino non ci sei qua in ascolto, mi sembra strano che a quest'ora, alle 6:18, ma... Sei sarà uscito, c'è una bella giornata oggi, magari se ne sono uscito. Stanotte ha messo pioggia, ma stanotte, spero che domani non piova però. Ma stanotte da che ora? Non lo so, ma tardi, penso del 10 alle 11, però anche domani hai messo qualche goccia di acqua, qualche goccia, non proprio, e poi di nuovo bel tempo, dai, non volete buco. Vediamo di sì, ho acceso appena adesso e ho sentito a Tonino che mi cercava. Ehi, ciao Natali, hai acceso appena adesso, ma ti sei perso una bella cosa poco fa, ai ai ai. Ehi, e cosa mi sono perso? Che stamattina ha fatto una sorpresa a Gianni. E che sorpresa? Mi ha portato a Protonella. posso telefonare, mi scapagava. Pronto, lei l'ha portato. Non mi conosco una polacchina, vedrai, non puoi mangiare tranquillo, non ti conosco niente. Io non mi metto a fare il video, per forza. E se facevo il video, lo mandavo a tali noi. La verità che buona, eh? Cascetta, abbiamo due cascettoni. E anche io ho mangiato un paio, dai. Signora Longa, e adesso mancano le frittelle, mi le frittelle con la giro. Ho capito, dai, ma te di le frittelle a giro. No, passa così. Passa così. Natalie. E oggi la domenica, purtroppo anche il trasgredito, quanto se ne ha mangiato? 4-5 minimo. Come qua? Adesso tipo mangia. Bravo, a tu. Gli ho preparato la cosa. Natalia, io ne ho comprato un pacco di passe poi. Mamma mia, sempre parlando di passe, sta questo qui, va a lasciare. 4 cannoncini, 4 ciambazze, 2 mignì. Io le frittelle non gliele hai portate, a lui gli piacciono quelle. E vabbè, ma quando ho visto poi quelli con la crema, io li sono fatti dolci a crema, gà. Sono cannoni, Natalia. Non sono cannoncini, sono cannoni. E poi Natalia l'ha fatta apposta perché lui ha detto che lunedì deve andare a fare la visita. Oggi è domenica, sono passato, ho detto io pronto il caffè, dai, passa pronto lei, la riporto le passe, mi. Se non mi ricordo male, con la pasticceria in via Arumonti, in Chiesa, in via da fanculo, non me lo ricordo più adesso. E dietro la chiesa del cuore immacolato, Aspetta che mi viene. Con le portolella. Eia. E vabbè, la via è dietro la chiesa comunque. Neanche io me la ricordo, non la guardo mai la via. Ormai sono già al posto, vado a odore. Comunque già c'era l'odore prima di girare a svoltare la via sinistra. Oh, si sentiva profumo. Sì, in via Grazzaletta. Prima di girare, ti ho un bel profumo, già pronto, insomma. Via Carducci. Adesso me lo sono ricordato. Cado che di Carducci. Stavo aspettando che lo dicessi. Un attimo immagino. Natalia, si sente più la televisione che tu. Ho capito. Aspetta un attimo, non guarda. Si sente, perché bassami la televisione. Lo dice lei vicino, ce l'hai. Senta, adesso qua hai abbassato il volume e senti meglio tu. Lì era più volume di televisione che tu. Allora, la televisione magari è bassa, ma c'è il microfono che amplifica molto, quindi l'amplifica, capito, il suono. Ma lui parla che a voce bassa deve essere, e la televisione lo frega. Infatti, poi questo qui amplifica molto da lontano, capito, è per quello che amplifica la TV. Mi sovravvolgo la televisione. E me ce la portate in televisione. Oh signor. Oh, che hai visto Natalie? Non si può fare, nel caso non è né fratelli a Gianni. E a Vigli Purivo i cimmi, ci mangiamo. Ha giudito, ma con questa bella giornata gira a fare, ne faccio un giro, invece dopo non ci sono uscito, perché avevo cosa da fare, quindi no. Se non sarei uscito mi avrei messo l'antenna in macchina. Passami da Gianni, è un frittellone che tu lo mangiavi. Dai, a te ti piace le frittelle, quella girella? Natalie. Già mi piacciono, è che faccio a meno di mangiarle, le so anche fare. Vabbè, ammesso che il concesso le sai fare, però se sono già pronte, belle calde, già pronte a mania, ok, martedì ci pensiamo. Fermo di così, cosa vuoi che ti dica? Anche tu già, tieni pronto. Come mangio io dolci? Asco, apri un macone. Quando sono pochi non ne mangia. Lui a Pinocchio non ne fa niente, via. Infatti. Sono ribiati mi cambi già pochi. Venivo un pacco mando da vedere, quindi. Ma per mai compravamo noi quella cifra? La ogni maniata di base. No, ma Gianni l'ha sempre detto. Io ne mangio qualche una, però se vi naggio di mi rimagno. Non è qualche una, no. Ehi, qualcuna ne mangio, se l'ho comprata ne mangio una, due, se c'è gente mi vergogno. Ma se mi date di poco, mi sciogli di voi. poi Natale mi ha detto, ah, pure le mazze che mi mangio hai contato. Ma no, è successo questo. Io ho fatto il conto, una sarà mangiato Elena, due me l'ho già detto, sono tre. Erano 10, rimangono 7. Ma se lui poi dice, mi questa è per la casa tua, no, tre, due, tre mangi stasera. E nel pacco sono rimaste 3, canto se l'ha mangiato Edo. È facile il conto, 4. Prima mangiavo uno di conservi, domenica. E cosa ne so io se poi dal frigo ho trasato via io ce l'ha mangiata di 7-3. A me mi ha detto l'ho mangiata il figlio del nipote, ma... Sì, che va sempre gente a casa di Gianni la domenica, quindi già è plausibile. Sì, ma come sono uscito io deve essere se l'ho mangiata in fessa. Aspetta che ve lo dice Elena se le ho mangiate o no le tre paste, non le abbiamo date a Marco e a... Sì, le abbiamo date a Marco e a... come si chiama? A Maurizio. Ah, ho capito, vabbè, hai detto la verità, meno male, eh. Non ti bocciamo questa volta, eh. Aveva il coltello puntato. Poi Gianni gli è di Bonconi. Ne ho lasciate una a mio nipote e a cosa, e a mio figlio. Ma quando ho aperto il pacco, dovevi vederlo data lì, a Gianni. No, non ci credo. Mia canonica. Mi sono dei maduri, mi sembra. E da poi vedi cremosi, mi. Ci metto quella ciabatta alla crema che vira. Oh. Loro ne mettono parecchio, ecco le lì. Natale, le ho gustate anche da Masia, latte dolce, le fa piccole ma buone, mi. Le ciabatte le fa belle croccanti. Sì, senti, cric cric quando le va. E mette anche la crema abbastanza. Ma i cannoncini ce l'ho proprio, sembrano pastine. Cazzo, non fare dei cannoncini, sono piccolissimi. Quello lì era malato una volta, no? E si aveva dimenticato come si facevano e sono dovuto andare io a impararglielo attorno a quello lì. Quello lì lavorava in via Campidano, è il fratello di due altri fratelli che hanno imparato da noi, quello lì, Giuseppe si chiama, non lo so se è ancora vivo, se mi serve solo la moglie, vivo sarà. Allora, da poco mi ha detto che doveva andare in pensione, che doveva fare la visita per andare in pensione, però c'erano la figlia e la moglie e anche lui dentro c'era. E Giuseppe, chi su una voce era, non so, cosa Udu, e si è dimenticato di tutto, Boarazzi. Sta meno che sostituirlo. E sono dovuto andare io a insegnargli che torna come si faceva alla sfoglia, perché a lui ci aveva dimenticato come si faceva, e ha finito. Ha perso la memoria. Ehi, ma so che Buffonelli è successo a vero così a Giuseppe. Ehi, si conoscimo chissà tant'anni. Si conoscimo. E i fratelli hanno imparato da me, Mattessi. Sia Antonello, quello che c'è in via Principessa Yolanda, che l'altro che c'è a Lippunti. C'è altri due fratelli pasticceri. Scusa un attimo, Natale, ma tu non li consigliavi le parte? No, io travagliavo pure i denti. Ah. Lavorano molto all'antica loro, lavorano, molto alla vecchia maniera, capito? Come una volta. Ehi, alla crema la fanno casereccia, Natale. E anche così chi si deve fare? Piero Matambuono, di Terzo Salemme, compromessi. Già lo so. Mercoledì in prima serata sul canale 5. Io so fare anche panettoni, ma panettoni a velo, non chi si fatti con lievito di birra, io li so fare veramente, quelli col lievito madre, che non c'è bisogno di mettere conservanti, capito? Ed è una cosa difficilissima, io l'ho imparata da uno che aveva una fabbrichetta in continente, Nino Borsari si chiamava, e io sono dovuto andare fuori a imparare. Ha pagato. Ma li facevate perché i panettoni? E a Bono li facevo, e ci andavo anche io con mio padre. capito. E con il pasticceria senza ombra di dubbio saranno migliori. Natali, ma fa la crema, non bevevo. Poi, io so che un metodo per fare la crema, che in 5 minuti la vai e non ti stracchi ne manco. Perché io voglio fare la crema in casa, un mezzo bacinella. Comprai mini già beauty e poi dentro me ne butto con i ghi. E allora, non ci vuole niente a fare la crema. Quella puoi fare di tante maniere. Prima la fai normale, poi la fai o al cioccolato, o gianduia, come vuoi. Ma bisogna sapere l'ingrediente, come farà così buona, ragazzi? Io la so fare in quantità industriali, però prendo la ricetta per farne molte e poi mi faccio i conti e ti dico per farne un litro, per esempio, quanto ci vuole, cosa ci vuole. Gianni c'è farina, zucchero e limone, sì, ma si c'è andata così, e poi la devi girare bene, la devi farli fare i grulli. Quello vuole girato prima bene, l'impasto vuole fatto. Fare scaldare il latte, cande e si zibone l'impasto di rento. In 2 minuti è fatta, chi subito si fa di doccia è pisanti, quando si fa di così è pronta. Quindi l'impasto sarebbe farina, zucchero e uova, però bisogna fare il conto per sapere la quantità. Io non me ne ricordo neanche adesso, lo dico a mio fratello e ti faccio sapere, lo dico a Angelo per farne un litro, per non farne molto, no, perché io so fare le quantità grosse, capito? Me lo faccio dire da Angelo, abbiamo i conti e fa un litro. Ma fammi un litro, più di un litro non mi vaino, sennò da voi d'avanza. Perché la crema dura 24 ore. Da voi si guascia. Contesto di allegria. No, si guascia, la regga no, che te la manevo. Poi non si guarda, non potevo fare un litro, dai, mi dai la ricetta, Natalia, che possiamo mangiare con Gianni. Mamma la faccia va bene, ci metteva anche la scorza di limone. Sì, però non devi eccedere col limone, se no te la facci dalla crema. No, per dargli il sapore, non metteva la parte bianca, perché quella è amara, li metteva, ma limoni non frattati usava. Capa di misura da me, ma una grattugiata di limone, boh. Così lo potevi pure. Antonio, ci sta venendo la fame delle paste, di la verità. Sì. No, vabbè, anche mangiato bene oggi, perché sono andato a mangiare la pizza di Sardegna, ma mi sbagliato di più. Ho sbagliato la pizza, ma non ho mangiato prima una, ma poi l'altra. Allora poi ci sono anche tu scusa e portato l'altra. Andava. Sì, ma io voglio fare la crema. Perché io voglio. Ci metto quei vigni più vuoti. E quando tu cominci a pienare, che pesano, ne faccio un chilo l'uno. Già, te ne immagini? Ma che non la sa fare? Perché non ce li sa fare. Bisogna chiedere anche a lì se la sa fare la crema. La mamma la faceva come buona, ma buona però. Abbiamo voluto imparare con lui. Agrumi, era bella cremosa senza agrumi, perché la farina se non la giri bene ti si fa tutta agrumi. Io ho il frusino elettrico, non c'è problema. E allora uso quello per picchiarci. No, che cosa per frullare l'uova e l'impasto tutto quanto, ok, pitina. Allora non so che la cambi con un braccio. Dai già che ci facciamo le fatte con la crema, altro che protollella, noi diventiamo le luni. Lasci tiri da luce. Perché poi io Tony non mangio la cappa, non so se l'hai notato che da vinile ho tolto la cappa. No, io mi mangio bagnata. Avevo voglia, me l'ho mangiata. Ma a me non piace, a parte che ho un concentrato di zuccheri, e poi non mi piace, no? Anche del papasiri la tolgo. Anche io il papasiri la tolgo, però lì stamattina mi è venuto a voglia e l'ho mangiata. E navigare a Samani, dai, volevi gustare il tutto e per tutto. Mi hanno fatto colazione alle 5 del mattino, ga. Ho bisogno tutto liberato in casa e poi mi ha cambiato la lavatrice, io ho dato l'altra, perché la mia è profondità 40, e da lui non ci stava, ma la sua nuova da 50, vabbè, già che ha piazzato il matessi, l'ho già piazzato apposta. Adesso bisogna imparare bene sto lavatrice come funziona, eh. Vabbè. Avanti, Tatalino. Aspetta un attimo che guardo una azzurria. Ok, no, le istruzioni non me la date, ho già. Ma poi vuoi sapere come si fa la crema? Vai su internet e cerchi come si fa la crema pasticcera e c'è tutta la ricetta. Ci ho pensato, Google e scrivi ricetta della crema pasticcera e ti dice tutto quanto, cosa devi fare. Ma non c'è, ma c'è farina doppio zero, così è. Ernia. Poi, latte. Si andava. Uova, zucchero, le uova frullate con lo zucchero. Comunque ci puoi mettere anche, come si dice, la farina di grillo. Vedi, papiazzini. Oh, allora sai, mi sono cancellato su Facebook. Mi sono iscritto su uomini e donne, eccetera. E ci ho scritto cerca di donne a Siria, non che hai grilli per la testa. Cazzo, cosa mi hai scritto? Mi sono iscritto con la farina di grillo. Ce l'hai una penna, Tonino. Tonino. Eia. Prendi una penna, un pezzo di carta che te la segni. Che te la do, la ricetta. Dammi mezzo minuto che vado in cucina, prendo la penna, la carta e arrivo subito. Allora, tu io non gli dici fate la crema pasticcera, io fate il cioccolato. Da poco con la panna ambrosa, uia. La cioccolata è buona, lo sai dove? Arriva al caffè, mi la fanno un bel buono la cioccolata. Poi la fanno in mille maniere, io prendo sempre la tradizionale, però la fanno in tanti buchi. Te regali il menù e tu te la scegli come la vuoi, la fragola, ce n'è in tante maniere. Pronti, Natalia? Allora, per fare mezzo litro di latte ci vuole. Poi 4 torli di uova, 4 torli, un letto di zucchero e 30 grammi di farina. E poi per profumarla gli metti o vaniglia o buccia di limone grattugiata. Non eccedere col limone, se no te la faccio, dai. Allora, mezzo litro di latte, 4 tuorli, un etto di zucchero, farina quanto? 30 grammi di farina 00 e poi mezzo litro di latte. Per profumarla ci metti o vaniglia oppure una buccia di limone grattugiata. Limone buono in bocca, che sennò ti la vasiacci, la metti, la riguaccia. E quindi metti nel poco limone. Già c'ho anche il peso. Ok. Latte mezzo litro, 4 torli, poi un etto di zucchero, farina 00, 30 grammi di farina, così poca. Sì, vuole così, 30 grammi di farina e mezzo litro di latte. Assai, 4 torli, 100 grammi di zucchero, 30 grammi di farina, mezzo litro di latte e poi per profumarla gli metti o vaniglia oppure limone. Vabbè, la vaniglia la trovi in bustina, la trovi. Ehi. Ma sono una bustina, no? Vanillina. Sì, la vaniglina, vaniglia o buccia di limone. Se ti piace il limone la fai al limone, se no con la vaniglia. Dimmi una cosa solo, il latte lo vuole caldo, bollito o fare un po' tiepido? No, bollito, come ti voldi, prima fai rimpasto, no, e poi una bollita un attimo intanto. Per quella svezza, te lo sto dicendo, mi. Con la buti burati e intanto ti fai l'impasto, ci metti lo zucchero, le uova e alla fine la farina e misci tutti in pari. Candu e metto misciato ed è budendo i rurati, candu po' di rurati si pone l'impasto e giri con un bruttino. Subito diventa pesante e tutta la crema, quando fai così, chiudi, ce n'è fatta. Non mangiare la carne, che sennò ti fai di tu scherzo, la carne fritta. niente da zaccusse. Ok, Gianni, domani faccio la cremuzza. Scommetto che anche Antonio sta scrivendo. Sì, non ci vuole molto a fare il segreto per farla, per non staccarti il braccio, è quello lì di far bollire prima il latte e poi ci metti l'impasto, e c'è subito subito. Sì, vabbè, dai, io bene o male non sapevo, ma le quantità non me le ricordavo, mamma la faceva, era buona, faceva anche i biglietti e queste cose qua. Quindi allora Natali, se per mezzo litro di latte ci metti giustamente 4 tuorli, 30 grammi di farina, per farne un litro giustamente ci vanno 8 tuorli e 60 grammi di farina. Eia, fai il doppio e ne fai un litro di latte. Allora, 8 tuorli, dai, per un litro te lo dico. Scrivi. Aspetta, io faccio tutto il doppio, dai. Voglio provare più con mezzo litro, se mi insieme me la mangio tutta io, quando ne posso un litro poi vanno da Gianni. Fai così, il doppio devi fare per un litro. Quella fanne prima mezzo litro e prova, se non ci riesci la posso io. Quando la posso io ti dico proprio come ti si fanno. Comunque ti raggiudico già come ti fanno. È così. Tu metti a bollire il latte, intanto ti impasti col frustino la cosa, l'impasto, no, lo zucchero, le uova e la farina ultimo, per non uscire i grumi. Sì, già ho capito, dai. Me l'ho anche scritto, quindi non c'è problema. Andà bene. Manuele, ci sei? C'è facetito. Ingommino! Prova a vedere se ti esce bene. Cioè? Una bella cioccolata con la panna ambrosa. Di domenica sera io la gana di cioccolata la passo per i gatti. Poi se vuoi fare la crema al cioccolato, a quella crema ci aggiungi il cacao amaro e la fai al cioccolato, assai tu. Oh già, passo per i gatti. Che succede, ma dove accompagnare? Vabbè, dai, rimandiamo. Poi la domenica non fa. Andiamo al caffè a prendercela, che la fa buona, l'ho già presa. Già so che te la prendi. A me vedi è troppo dolce, io vado cauto. Ma c'è il cioccolato amaro, vedi quello fondente cioccolato. E tu prendi con la panna però. Beh, se mi manca la panna mi manca tutto, è proprio un che mi butta. Ui. Andare, Antu, te. Poi se vuoi fare la crema chantilly devi mixare la crema al burro e imparare la crema a pasticcera. E quella è la crema chantilly. Cioè, Santiglia la giovane. Yes! Quella è buona lo stesso. Quella lì è quella che fanno a Cagliari. Santiglia. Non è Santiglia, funziona. No, si scrive Chantilly con la I lunga, perché è francese. Ma Gianni, edo subito, si a Cagliari. Domani noi mangiare le cioccolette a Santiglia. Ah, santi. Oi. Manuele, è pronta la crema? Manuele, è pronta la cremuzza? Ma il bagno qui perché? Magna mia! Dai. A noi ci piace la crema. Cioccolatolo. La crema. C'ho tutto quanto a casa, solo i limoni mi mancano perché ci vogliono quelli che non sono medicati. Io ce l'ho a campagna di sale dei limoni. Ho guardato, c'ho solo 3 uova. Il latte ce l'ho. Ma mi manca la farina. Manca il miglio. E la vaniglia. Eppure avevamo con pareggio la farina e l'avvolto. E neanche io ne ho farina. Fai scettini da lui. Occhio a pigliare quelle di grillo, mi Natali. A non pigliare. A non prendere quelle di grillo. Quelle di grillo a Gianni. Ok, allora va bene. No, Gianni è un grillo. Ci ha pagato. Ma sempre fa vedere dei dossi, no? Poi mi ripeti di ragazzi. Allora sai cosa mi piacciono a me? Proprio mi piacciono davvero. Le castagnole sono quelle frittelline piccole piccole piene di crema. Ah, chi si sinistra a me? A me lo dice, eh? Sai che ti viene mariato di chi si da lì? Euia! Noi le vendevamo, ce le portava a calde e calde con la pasticceria di Sennuri. Una magnata, non le compravo, non le mangiavo. Quelle lì, cazzo, sono buone. Chi si ha le piante in avvero già, Buone sono rotonde, sono tipo polpette, rimangono rotonde così. E così sono. Chi si, sono buone avvero già. A mosso nulla di sciare, quando arrivava il pasticcere, aspetta che mi gusto. A 5 secchi alla volta. Ma le vendevamo tutte, mi andavano che cosa ma. A chi piace ne chissi? Chi si piace non be? Tu dovevi controllare e riprendi il dovere tu e vedere se era riponi già, vero? Poi il pasticcere ci viziava. Ci portava 4 paste, 2 a testa, a me e all'altro magazzinetto. Ci portava 4 paste, venire le paste più portate, grazie. Veniva il panettiere, la focaccia salata oppure la focaccia di pizza. E chi mi ingrassavi? Ti abbuscavi tutto, abbuscavi di tutto, lavorando. Se no quei panini a ruba, canto me la Giovanni, e di quel pane a ruba, quello morbido, piccolo, ogni volta che veniva che dopo ne regalava 4 o 5, non sapevo mai cosa fa quindi, perché poi si induriva, allora me ne mangiavo uno andando col furgone, poi uno alla fine mattinata, poi dove avanzava, ti portava a casa, ma non durava ne assai. Te credo. E le baguette scoperto hai dove le fanno calde? Aerospin le fanno Natalì, Aerospin le fanno. Stamattina non solo la scoperta, se l'ha anche mangiata, l'usignori. È andata a comprare la roba a Barugani e si ha mangiato un burro. L'ha vista bella e calda, se l'ha presa, ha aperta col coltello, ci ha messo due di mortadella e via. Pascetta! No, c'ho 4 uova, mi manca la farina, c'ho tutto il resto qua, mi manca anche la marina, giustamente. Oppure di quei limoni, però che non si animi di gatti, mi. No, io ho preso da campagna dall'albero di mia sorella, le ho presi. Ne ho 8-10 mi sono i limoni a voglia. Ma detto, quando voi venite le prende, ne ho un me, ma arbori zeppi, vieni proprio. E quindi me ne prendo iniziato, capite? I limoni non sono trattati quelli là, sono tranquilli. Quindi ma mi manca la farina, Natalino, ne ho. Ma anche io un naggio, se no. E mi tanto domani deve andare a fare la spesa, mia moglie, glielo dico di pigliarlo. Così vedo come mi esce. Ascolta, dove ti trovo i bigni vuoti? I supermercati li vendo. No, tutti i vuoti della terra non ho mai visto bigni vuoti io. Dove? Ho detto in tutti, tu mi hai detto, in tutti i negozi alimentari, detto, io non li ho mai visto. Già ci sono, i bignè vuoti vendono, mousse di bignè vuoti vendono. E li vendono nei supermercati, li trovi, magari ce li anche i rossini. Non ho mai visto i rossini, io vado spesso lì. Già ci sono, che ce li hanno tutti. Tutti ce li hanno, le vendono in busta trasparente, si vedono. E che non è voglia adesso mettermi le scarpe e uscire correndo e comprare la farina, guarda. Perché poi mi manco le bignine, ho tocco da fare i bignini, no. Domani mattina presto, alle 8 sono già in giro, così mi scopro tutto il resto, così vengo a casa e faccio subito la cremussa. Sa che tapposcia ce l'hai per riempire i bignini? Eia, aspetta, come ti cifra? Ho già. Ma allora, 4 uova ce l'ho, ne compro altre 12, così non mi sbaglio. Altre 12? Se vuoi in due. No, perché se mi sbaglio con mezzo litro, ho riprovato mezzo litro. Se sbaglio, lo rifaccio in uova. Va bene, fa il pasticcere domani. Adesso se impari a fare la crema, poi facciamo anche le torte. Lo chiediamo a Natalino come si fanno e facciamo pure la dulce. A me piace molto il torta limone. Ma io dai, per le torte non è che vado matto, dai. Le mangio sì, ma non è che ci vado matto. quello che mi piace a me sono le paste con la crema, quelle cose lì sì, anche le pastine piccole con la crema, che buona lì di solito. E anche i pappasini mi piacciono, se sono fatti bene si deve sentire bene l'anice, se no non mi piace. Natalia, hai capito? Anche la torta ci devi imparare. Allora se lui deve imparare a fare le torte, lui deve imparare anche a fare i liquori. Perché vuole bagnata la torta. Io i liquori li so già fare, che li facevo prima. Mi sono fatto tempo fa una bella crema di cacao, ma così buona. Poi andavo da Piras, drogheria, e comparavo quello che mi serviva. E le quantità che te le ha detto? Leggevo. Andavo su internet, poi compravo l'alcol, e costa l'alcol, va bene. Io di garofana, cioè, dipende dallo serio, ho fatto, non ho già fatto i ricorri, poi, e poi io non è che le mica sa ricorri proprio, ma. No, neppure li vedo. Vabbè, le creme già sono buone, crema di whisky, quelle lì sono buone, là. Anche il Baileys mi piace, la cioccolata. Io ce l'ho, c'ho il Baileys qua, il cioccolato, e poi c'ho anche, solo il cioccolato, c'ho e più c'ho il Baileys normale, buono. Poi c'ho anche la massa all'uovo, che a me piace tanto, ogni tanto goccettino me lo bevo. E provo a metterla in mezzo alla crema, la marsala, e da voi mi diverò. Ui, Gianni, domani bella cremuzza. Ma vedi di a te, cazzo, ma carità. Che sei un diavolo tentatore. Mazzani, ma ti lo bocchi. Davvero, ma guarda, siamo dicendo tutti i bicicletti. Prova a mettere un po' di crema e ci metti la marsala, la penna di marsala, e la giri. E così se li fa di tre tipi i binè. Alla crema normale, crema marsala e crema cacao. Io poi a Gianni diciamo, tappati gli occhi, mangia questo e dimmi che sapore ha, ma che cos'è? Io, mamma mia! Povera glicemia, dammi il bagno tutto! No, che ci fanno male, a parte gli scherzi, stiamo già mangiando con gli occhi.